24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 19 minuti e 20 secondi di questo mercoledì 1 luglio inizia la terza parte di 24 Mattino. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia. Buongiorno Maria Latella. Ciao Maria, come stai? Buongiorno, buongiorno Simone. E buongiorno a tutti voi. Stiamo discretamente bene, ma il Covid continua a farci compagnia. Parli di te al plurale ormai. prego. Stiamo tutti almeno in Italia un po' meglio, ma dalla parte dei giornali inglesi o francesi continuano ad arrivare notizie che secondo me meritano di essere segnalate. Intanto in Francia hanno messo sotto accusa, mettiamola tra virgolette, l'ex ministra della Salute, Agnès Buzyn, che è stata ascoltata dalla commissione d'inchiesta dell'Assemblea nazionale e ieri si è dovuta difendere dall'accusa di non aver seguito che fine facevano le mascherine e perché c'è stata una grande penuria di test per verificare il contagio. Insomma, è stata una giornata dura per l'ex ministra della Salute, il che dà anche il segno di come in Francia vogliano chiedere conto di come è stata gestita finora la questione Covid-19. Notizie non confortanti, o forse sì, ma ce lo dirà piuttosto il nostro ospite che seguirà tra poco. Arrivano anche dalla Gran Bretagna. Ieri, ti ricorderai Simone, avevo dato conto della prima pagina del Daily Telegraph che annunciava il lockdown in una città piuttosto grande, popolosa e povera, che è Leicester, nel centro dell'Inghilterra. Ebbene, Daily Telegraph dà conto di una ricerca che porterebbe a credere che molti ragazzi di Leicester sono contagiati ma non trasmettono il virus. E c'è poi uno studio del Karolinska Institute, quello svedese, che darebbe testimonianza una fotografia, del fatto che ci sono molti contagiati asintomatici e insomma in qualche modo si sta diffondendo quell'immunità di gregge di cui si parlava all'inizio, ma non ci sono certezze. Non ci sono certezze. Chissà se ne ha qualcuna in più il professor Pierluigi Ropacco, che torna da noi, ordinario di genere all'Università di Pisa, responsabile del coordinamento regionale emergenze epidemiologiche della Regione Puglia. La faccio più semplice di quanto sarebbe lunga la definizione. Professor Ropacco, bentornato, eccoci qua, eccoci. Buongiorno a voi. Allora, certezze non ne abbiamo, però mi pare, professor Ropacco, che si torni a parlare anche forse dalle parti della Gran Bretagna di questa carica virale che si abbassa, degli asintomatici che non trasmettono tanto, insomma viaggiamo là sempre su quest'onda in queste ore, eh? Ma io credo che questa è un'evidenza che si sta via via affermando, e poi diciamocelo chiaramente, non è certo una novità. Voglio dire, in infettivologia, uno dei principi dell'infettivologia è il cosiddetto inoculo virale, cioè se io assumo una quantità di particelle virali molto alta, è molto più probabile che questi virus passino, attraversino quelle che sono le prime difese naturali, no? Che sono rappresentate dalla bocca e dal naso, e quindi entrino nell'alveo respiratorio, arrivino ai polmoni. Se invece l'inoculo virale è basso, sono poche particelle virali, queste particelle virali possono essere più facilmente combattute. Quindi è un principio, diciamo, base dell'infettivologia che non è certo nuovo. E quando noi parliamo di asintomatici che trasmettono molto poco la malattia, ci riferiamo esattamente a questo. Chi è asintomatico significa che in quel momento non sta replicando attivamente il virus, probabilmente la carica virale che ospita è bassa, e soprattutto, altra cosa importantissima, non tossisce. È una persona che non tossisce, cioè è una persona che respira, quindi al massimo mi trasmette il virus attraverso il respiro e non con un colpo di tosse, che significherebbe un inoculo virale molto più alto. Quindi, facendo 2+2, tutte queste osservazioni che stiamo raccogliendo sia in Italia che all'estero vanno in questa direzione. Maria, prego. Senta professore, citando proprio I dati che raccolgo dal Daily Telegraph. Dicevamo che ieri la città di Leicester è stata di nuovo chiusa. Hanno chiuso tutto, ristoranti, negozi, eccetera. C'è di nuovo il lockdown come da noi a marzo o ad aprile. E secondo i dati che sono riferiti, al 15%, il 15% degli adolescenti sotto i 18 anni di questa città ha tre volte di più il contagio rispetto a quanto è contagiata di più rispetto a quanto non succedesse un mese fa. Quindi aumentano i contagiati, soprattutto tra i giovani. Questo teoricamente dovrebbe portare a quello che dicevamo, cioè a un'immunità di gregge, però evidentemente le autorità inglesi hanno ritenuto necessario tornare a lockdown, a una misura molto severa. Sembra una contraddizione o fanno bene? No, non è una contraddizione. Quello di cui stiamo parlando molto probabilmente è uno studio di sierologia, cioè la ricerca degli anticorpi. Quello che si è visto è che magari qualche mese fa era soltanto il 5% ad avere gli anticorpi, ora è il 15%, cioè che significa che in queste settimane il virus ha circolato tanto per triplicare il numero di persone che sono state in contatto con il virus. Però parliamo del 15%, cioè siamo lontanissimi da quella che è il concetto di immunità di gregge. Immunità di gregge significa 60%. Almeno, esatto, cioè significa che sono tante le persone che hanno gli anticorpi che anche se c'è un positivo, il positivo intorno a sé trova tutte persone con gli anticorpi e il contagio non si diffonde. Con il 15% questa evenienza non si realizza, quindi siamo molto lontani. Ecco perché quello che loro hanno visto è un'evidenza di circolazione virale, soprattutto circolazione virale che non sono riusciti ad identificare. Io credo che la preoccupazione delle autorità sia questa. Facciamo un esempio, quello che sta succedendo oggi in Italia, no? Il fatto che abbiamo questi focolai qui e lì in diverse regioni, è preoccupante fino ad un certo punto, perché comunque sono focolai che la sanità pubblica riesce a identificare. Cioè, sappiamo che ci sono, si arginano, si chiudono, si interviene. Non c'è bisogno di bloccare Bologna perché in un'azienda c'è stata una circolazione virale. Se lì stanno bloccando una città è perché probabilmente non hanno gli strumenti di sanità pubblica per bloccare la circolazione del virus. Professor Lopalco, la porterei sulla questione dei voli dall'Europa. Qua ci sono due questioni che si incrociano. Da una parte, da fuori Schengen, due questioni che si incrociano. Da una parte la decisione europea di aprire i confini ad una serie di paesi, tra cui la Cina, ovviamente con tutte le precauzioni, e non gli Stati Uniti. E dall'altra la scelta dell'Italia, è su questa che vorrei portarla, di praticamente applicare la quarantena a chiunque venga da fuori Schengen. Secondo lei una scelta giusta o no? Purtroppo si è un po' replicato quell'errore che abbiamo in qualche maniera registrato all'inizio dell'epidemia a febbraio. Vi ricordate quando l'Italia, secondo me giustamente, bloccò i voli dalla Cina perché avevamo soltanto quell'informazione, no, che il virus circolasse in Cina, e il resto dell'Europa non ci seguì, non ci venne appresso, non ci fu una strategia globale. Che cosa successe? Che in Italia si arrivava arrivando in Europa, si scendeva a Francoforte e poi a Francoforte si prendeva un treno, un autobus, una macchina e si arrivava in Italia, o anche un aereo, perché poi all'interno dell'area Schengen non c'è nessun controllo. Io credo che oggi, se non c'è una politica concordata fra l'Europa e l'Italia, ancora una volta noi avremo questo paradosso che noi chiudiamo, però poi si può entrare attraverso Parigi, Francoforte, Amsterdam e tutti gli altri. Quindi lei dice, mi scusi europei, professore, che la decisione italiana è giusta secondo lei, mentre l'Europa che sbaglia? O quantomeno deve essere fatta in accordo, cioè o si sbaglia insieme. Cioè ci vorrebbe una quarantena per tutti? Una quarantena per tutti, se un cittadino britannico passa da Parigi gli devono far fare la quarantena anche loro, faccio per dire. Allora, cioè, o si fa così o non ha nessun effetto. Allora, o si decide insieme che non ha senso chiudere i confini e probabilmente, se ci facciamo due conti, in questo momento particolare, con la situazione epidemiologica che abbiamo, forse potremmo permettercelo di far entrare qualche positivo e poi identificarlo una volta che è entrato. questo forse ce lo potremmo permettere, però è da valutare attentamente, oggettivamente, non è una decisione che si può prendere su due piedi. O comunque questa decisione di far fare la quarantena deve essere presa da tutti, perché altrimenti appunto uno arriva a Parigi e poi arriva a Roma, cioè che senso ha? Professor Lopalco, noi stiamo... professore, volevo fare una domanda Alzano, al professore, perché come dobbiamo interpretare la notizia dei 110 pazienti con polmoniti di cui non si conosceva la causa, che sono stati ricoverati tra novembre e gennaio all'ospedale di Alzano Lombardo? Lei pensa che di fronte a quelle polmoniti ci si sarebbe dovuto porre una domanda e chiedere come mai così tante e così pericolose? C'è stato qualche ritardo nel riconoscimento del contagio, secondo lei? Ma insomma, difficile dirlo a posteriori. Teniamo presente che parliamo appunto di un periodo in cui ci poteva già essere una circolazione di virus influenzale. Distinguere una polmonite interstiziale da quello che poteva essere un quadro di sindrome respiratoria grave influenzale non è facilissimo, quindi sì, magari un allarme ci sarebbe potuto essere, però ripeto, se fosse capitato in estate sicuramente sì, ma capitando in autunno, tardo autunno, inverno, poteva tranquillamente essere, mescolarsi con quelle che sono le sindrome respiratorie acute normali in quella stagione. Sono tante le stagioni in cui abbiamo dei picchi di polmoniti atipiche che non sono da coronavirus, sono stagionali, sono date da altri virus. I clinici spesso le vedono, insomma, questi focolai che poi passano naturalmente. Quindi è difficile, se non c'era nessun allarme a livello internazionale, davvero farsi venire l'idea di una pandemia per un gruppo di polmoniti, insomma, non era da tutti. Grazie professor Lopalco per essere stato con noi, un'altra volta, per averci aiutati ancora a sciogliere qualche dubbio. Buona giornata professore. Buona giornata, buon lavoro. Per Luigi Lopalco, ordinario di igiene all'Università di Pisa e responsabile del coordinamento regionale emergenze della Puglia. Una pausa e poi però tutta questa questione dei voli rischia ovviamente di avere un impatto ulteriore sul turismo, questa storia della quarantena, ne parliamo tra un attimo. Mattino. Buongiorno a Marina Lalli, presidente di Federturismo Confindustria. Eccoci. Buongiorno a voi. Buongiorno. Eccoci qua, Maria, prego. Buongiorno Lalli. Ecco, oggi il Sole 24 Ore apre, secondo me, giustamente proprio su questo tema, cioè il turismo e l'assenza di turisti americani e russi, per i quali appunto l'Unione Europea ha definito l'impossibilità di entrare nei paesi Schengen. Nell'articolo di Enrico Netti leggo che appunto le più grandi catene 4-5 stelle non riaprono perché metà dei loro clienti o anche di più sarebbero stati americani, russi. Come pensa che potrà reggere il turismo italiano di fronte al fatto che in questo modo gli americani non verranno, perché c'erano già alcune prenotazioni, leggiamo sempre nell'articolo del Sole 24 Ore, di clienti americani, dice il proprietario di uno dei più grandi alberghi romani, abbiamo raggiunto circa il 50% di prenotazioni, un cliente su due è americano, ma se non possono venire? Questo è un dramma che si aggiunge al dramma che il turismo italiano già sta vivendo. Perché sì, lei dice bene, cioè i turisti americani per noi sono un mercato imprescindibile, stiamo parlando di quasi 5 milioni di persone che però spendono oltre 5 miliardi di euro, quindi non è un turista di cui si fa meno a cuor leggero, e di conseguenza non poterli avere, e a questi ci aggiungo anche i russi che al momento sono in questa lista, è un problema serio, e soprattutto perché le città d'arte, che sono quelle che anche d'estate sono visitate da questi stranieri, nel momento in cui non hanno questi stranieri, gli italiani difficilmente di estate vanno nelle città d'arte, diventano completamente spopolate, e lì abbiamo anche buona parte dei nostri delle nostre strutture ricettive più di lusso, quindi sulle quali si è investito anche molto. ma poi le strutture di lusso sono quelle frequentate da questi turisti e quindi non averli qui è veramente un dramma serio. Ora io non, ovviamente non discuto da un punto di vista sanitario qual è la decisione più giusta, però se questa è la decisione più giusta allora bisogna che ci siano anche aiuti proporzionati a questa decisione. Ci sono paesi sì. come il Portogallo e altri che infatti hanno votato contro la decisione dell'Unione Europea, sì. La Spagna si è allineata per ultima e anche l'Italia, perché sono quelli che ci rimettono di più, ovviamente. Naturalmente. C'è un altro punto, Presidente, che è il fatto che l'Italia in tutto ciò si distingue dal resto d'Europa, perché decide di, sì, di far arrivare gli stranieri, ma con una gli extra Schengen, ma con una quarantena. E questo anche potrebbe rappresentare un ulteriore problema per il settore, perché poi insomma è vero che le persone possono circolare lo stesso, lo dicevamo prima, perché uno atterra a Parigi, poi si prende un altro aereo interno o un treno, una macchina e arriva in Italia, però lo fa con più difficoltà in questo periodo. Lo fa con più difficoltà e facendo più male ai nostri aeroporti che sono già spopolati, stanno da mesi ormai vivendo un momento di crisi nera, dopo tra l'altro aver fatto in buona parte grandi investimenti e quindi nel momento in cui noi sottraiamo traffico ai nostri aeroporti stiamo comunque facendoci male e quindi questo è un problema serio che pure va risolto, in quanto almeno in questo l'Europa dovrebbe avere una politica comune. Ma la quarantena è un freno ulteriore, immagino lei lo consideri un freno ulteriore, un problema sì. ulteriore per il settore, no? Sicuramente, chi viene in un luogo non lo fa per confinarsi, lo fa per visitarlo agevolmente, per muoversi e per anche muoversi da uno stato all'altro. Ritornando sempre agli americani, loro dicono vado in Europa, perché per loro l'Europa è come fosse, diciamo, un paese unico, quindi dire che devono rimanere confinati per diversi giorni in uno stesso posto significa poi far saltare quel posto e farli andare altrove. Senta, io ho una curiosità, non so se lei me la possa, mi possa aiutare a scioglierla, ma come sono stati scelti secondo lei i paesi rispetto ai quali è caduto il veto di ingresso? Perché l'Algeria ha anche lei un serio problema di Covid, l'Australia, ora io non vedo queste masse di turisti australiani pronti a fare 12 ore di volo in queste circostanze, eccetera, per fare turismo in Europa. Il Canada, forse sì. Poi la Georgia, il Giappone, il Montenegro, il Marocco, la Nuova Zelanda, il Ruanda, la Serbia, la Corea del Sud. La Corea del Sud probabilmente un po' di turisti forse potrebbe mandarceli. Ma lei come lo spiega questo criterio col quale appunto a Bruxelles hanno scelto i paesi dai quali possono arrivare turisti o visitatori? Comunque non le nascondo che mi sono fatta anche io la stessa domanda studiandomi la mappa e studiando anche i contagi dei paesi che nella mappa erano colorati in un modo oppure nell'altro, ed effettivamente è difficile trovare una linea comune per capire qual è stato il principio che ha guidato questa decisione. In alcuni casi è evidente, quindi è chiaro che era una questione semplicemente di contagi migliorata sensibilmente, e in altri casi invece questa spiegazione non è così chiara e quindi davvero ci si chiede, almeno per chi vede il mondo con gli occhi del turismo, come succede a Federturismo, ci si chiede qual è stata la decisione dietro, il criterio dietro questa decisione. E io mi auguro davvero che nei prossimi immediati giorni si possa rivedere qualcosa, perché altrimenti, ripeto, il mondo del turismo già terribilmente colpito, non so quanto riuscirà a rimanere in piedi in questo 2020, per riaffacciarsi con più speranza al 2021. Molte aziende, temo, che non ce la faranno. Ci fa notare un ascoltatore dall'altra parte, questo va detto, Presidente, dice sì, la quarantena è un problema, il blocco dagli Stati Uniti è un problema, ma avete idea di quello che sta succedendo negli Stati Uniti sul fronte dei contagi? Anche questo, ovviamente, anche l'aspetto sanitario va tenuto, no, ben presente, no? Sicuramente, infatti io dicevo che da un punto di vista sanitario non mi azzardo a dare giudizi, però quello che voglio veramente dire è che nel momento in cui questa è la migliore decisione, a quel punto bisogna trovare un modo per aiutare le aziende, perché altrimenti le aziende non restano in piedi in questo modo. Molto semplicemente vedremo di capirne questo. Di più anche con l'ospite che verrà, perché molte delle decisioni su questo fronte di aiuti eccetera devono arrivare appunto da Bruxelles. Sì, anche da Bruxelles, non solamente da là. Presidente Lalli, un'ultima nota: bonus turismo, ne abbiamo parlato tantissimo in questo periodo, abbiamo raccolto molta perplessità da voi, dalle categorie, soprattutto per come è strutturato. Sì, confermo, siamo sempre stati tiepidi su questa misura, adesso che abbiamo anche la modalità di utilizzo capiamo che diventa anche particolarmente difficile da utilizzare, è una misura che forse vuole dare un aiuto alle famiglie, che per carità è lodevole, però non è certamente una misura che può aiutare le imprese, anche perché le imprese si trovano a dover anticipare l'80% della misura, quando invece le imprese stavano chiedendo un aiuto sulla liquidità. Quindi davvero non è quello che serve al settore per rimettersi in piedi. Questo quindi servirà qualcos'altro. La ringraziamo. Grazie Marina Lalli, presidente di Federturismo Confindustria. Speriamo per il turismo italiano. Speriamo. Almeno che arrivino un po' di europei. Sì. Speriamo davvero che arrivino un po' di europei, speriamo che almeno una parte dei turisti stranieri possa arrivare. Abbiamo visto che sui cinesi c'è una parziale apertura con tutte le cautele del caso, e magari da quel lato arriverà qualcosa. Dovremmo avere in linea Victor Elbling, che è l'ambasciatore tedesco in Italia. Ambasciatore, buongiorno. Tutto questo nel giorno nel quale la Germania prende la presidenza di turno dell'Unione Europea. Ambasciatore, eccoci qua. Bene, buongiorno. Felice di essere qui con voi. Buongiorno. Piacere. Buongiorno. Prego, intanto Mario. Spieghiamo ai nostri ascoltatori che l'ambasciatore Elbling parla un italiano perfetto, perché ha una mamma italiana. Vabbè, sì, giustissimo. Lo sentirete, tra l'altro. Senta, ambasciatore, allora oggi è il primo giorno, e in bocca al lupo a voi e in bocca al lupo a tutti noi europei. Forse avrà sentito la presidente di Federturismo che lamentava il grave problema che per il turismo italiano è rappresentato da questa estate post-Covid. Tutti guardiamo alle decisioni che saranno prese con la Germania, leader del semestre europeo, sul fronte del Recovery Fund, e tutti ci chiediamo quando saranno prese, in che tempi e appunto prevedibilmente quando questi fondi potranno essere disponibili. Lei che previsioni fa? Allora, sarà un semestre molto, molto intenso, e tutti i temi che lei ha nominato, che ha menzionato, sono temi essenziali per noi, no? Naturalmente il primo che avremo sul tavolo e che vogliamo risolvere, se possibile già il 17 e il 18 luglio, dove sarà il prossimo Consiglio europeo, cioè l'incontro dei capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea, è il tema del bilancio pluriennale, e dentro di questo bilancio pluriennale dal 21 al 27 c'è il grande tema delle risorse per la ricostruzione, il cosiddetto Recovery Fund. Noi vogliamo avere un risultato già in luglio, ci stiamo impegnando proprio per questo insieme ai nostri partner, perché vogliamo che le risorse siano disponibili il più presto possibile. È un negoziato non facilissimo, come tutti sanno, però l'impegno nostro, insomma, c'è tutto e stiamo facendo tutto quello che possiamo per arrivarci. Beh, in fondo la Germania si è posto fin dall'inizio di questa crisi da Covid come un elemento di mediazione tra i cosiddetti paesi frugali e tutti gli altri, no, ambasciatore? Ma guardi, io ho sempre sostenuto che la posizione della Germania in Europa deve essere sempre una posizione di centro. Dobbiamo cercare di costruire ponti tra le diverse posizioni, e per questo anche trovarci adesso nella presidenza anche se le aspettative sono, devo dire, molto alte, forse troppo, no, non credo che riusciremo a contribuire a risolvere tutti i problemi che abbiamo sul tavolo in questo momento, che si sono anche accumulati durante un certo tempo, ma mi sento confortevole in questa posizione, perché è la posizione naturale della Germania, quella di essere il mediatore. Ambasciatore, ricordavamo nei giorni scorsi che gran parte dell'Europa in autunno si troverà a fronteggiare un'impennata grave della disoccupazione. So che il tema della coesione sociale è ben presente alla cancelliera e in questo semestre europeo si cercherà di lavorare a delle soluzioni. Quali potrebbero essere queste soluzioni? Un salario minimo europeo? Un reddito minimo? Ci può aiutare a capire come in questo semestre l'Europa cercherà di affrontare il fatto che possano esserci milioni di disoccupati in Italia, in Francia? Non so come sia la situazione in Germania. Sì, la disoccupazione è naturalmente una delle grandi sfide che avremo nei prossimi mesi, questo è chiaro. Il tema della coesione sociale, della solidarietà interna europea è uno dei temi centrali, no? dei nostri tempi. Forse i due grandi temi sono la solidarietà da una parte, allora il tema interno, e poi la sovranità europea, no? La forza di questa Europa anche verso il resto del mondo, questo è forse il secondo, e tutti e due sono connessi l'uno con l'altro, abbiamo bisogno di forza interna per poter essere forti anche esteriormente, questo è chiaro. Allora, alcuni dei temi che lei ha menzionato sono proprio al centro della nostra discussione sulla coesione europea, no? L'Unione Europea è il luogo al mondo dove la coesione sociale è più forte, questo è chiarissimo, vogliamo continuare a lavorare su questo. Il salario minimo comune, avere un salario minimo comune in Europa è uno dei temi, un altro tema che già abbiamo affrontato con questo strumento SURE, che è già adesso a disposizione, è una riassicurazione europea sulla disoccupazione. Due passi in avanti importantissimi che fino a poco fa credo non sarebbero neanche potuti così menzionare, neanche discutere. Allora, abbiamo fatto grandi passi avanti in questo senso. Io sono convinto che qui è lì che batte il cuore dell'Europa, no? Nel tema della coesione sociale, e ci impegneremo in questo senso. E non dimentichiamoci dei fondi, delle risorse importanti che vogliamo generare anche attraverso il quadro pluriennale, attraverso il bilancio pluriennale, perché anche da lì ci sarà la possibilità di appoggiare i disoccupati e di dare un rilancio, forse questo è ancora più importante a futuro, un rilancio per la ricostruzione, perché non vogliamo tornare alla situazione che avevamo prima, no? Vogliamo migliorare, vogliamo diventare più forti, più innovativi, più verdi, no? Più digitali. Allora, tutto questo vogliamo raggiungerlo con questo bilancio che stiamo preparando. Ci sono altri due temi di cui uno particolarmente urgente, anzi sono tutte e due urgenti, che ricadono nel vostro semestre di presidenza, ambasciatore. E il primo è sicuramente Brexit, si deve chiudere entro il 31 di dicembre, da settembre in avanti si arriverà un po' alla stretta dei negoziati. E l'altro tema è quello dei migranti, della revisione del Trattato di Dublino, della coesione europea anche su questo fronte, cioè nel rendere poi effettivo tutte queste discussioni, questa grande solidarietà all'Italia che abbiamo sentito tante volte a parole, ma non moltissimo sui fatti. Ma io credo che, per iniziare dall'ultimo tema della migrazione, credo che la solidarietà verso l'Italia c'è stata negli ultimi mesi, se pensano a tutte le redistribuzioni che abbiamo fatto nella cornice, no, dell'accordo di Malta. Non, chiaramente è vero che non stanno partecipando tutti i paesi europei, vogliamo che partecipino molto di più, ma quelli che partecipiamo, tra l'altro la Germania, abbiamo distribuito i migranti che arrivavano in Italia nei nostri paesi in modo, credo, molto equilibrato e molto fair, diciamo. Però è vero, abbiamo bisogno di una cornice europea che funzioni per tutti i paesi, anche questo è un negoziato complicato con posizioni molto diverse tra i paesi, ma la Commissione europea sta preparando una proposta che metterà sul tavolo presto dove vogliamo arrivare a un sistema post Dublino più equilibrato, più giusto, dove sia i paesi di primo approdo come l'Italia, come la Grecia, come la Spagna, sia i paesi di seconda migrazione come per esempio la Germania si trovino, diciamo, bene custoditi. Abbiamo bisogno di una contribuzione da parte di tutti, di un contributo da parte di tutti, no? Quelli che magari hanno difficoltà ad accettare una distribuzione tra tutti i paesi, forse dovranno contribuire in un altro modo, e su questo stiamo negoziando. Ma questa è solo una parte, questa è la parte europea. Poi dobbiamo chiaramente impegnarci in modo, credo, molto più importante di quello che abbiamo fatto fino adesso, con tutti i mezzi e gli strumenti che abbiamo per la cooperazione nei paesi di origine. Credo che lì è un grande sforzo che dobbiamo fare, soprattutto verso l'Africa, e la volontà in questo senso c'è tutta. Questo sarà, è verissimo, uno dei temi importanti dei prossimi mesi. Sulla Brexit, sì, prevedo che da settembre in poi ci sarà un negoziato molto intenso, molto, molto fitto. Come tutti sappiamo, le posizioni tra l'Unione Europea e la Gran Bretagna sono ancora distanti in questo momento. Noi vogliamo un rapporto anche in futuro molto stretto con la Gran Bretagna, che resta naturalmente un paese europeo, un paese alleato di cui abbiamo bisogno, no? Vogliamo essere molto vicini a loro e loro a noi, però dobbiamo trovare un buon equilibrio che salvaguardi anche il nostro mercato comune, le regole che abbiamo nell'Unione Europea. Allora, io sono ottimista in questo senso, però avremo bisogno di molto lavoro, soprattutto da settembre in poi, in questo senso, questo è chiaro. Maria, abbiamo spazio per un'ultima domanda. Sì, volevo solo avvertire. Parlava prima di sovranità europea. Sì. Proprio in questi giorni ci siamo accorti appunto che l'Unione Europea, nel decidere chi può arrivare nei paesi Schengen e chi non può arrivare, con la Cina si è trovata molto in imbarazzo, e alla fine si è deciso che i cinesi potranno arrivare in Europa a condizione che ci sia reciprocità, il che mi sembra scontato perché questo vale per tutti. Le chiedo, la Cina e l'Europa, come questo semestre europeo a guida tedesco cercherà da un lato di salvaguardare i rapporti commerciali, ma dall'altro di difendere anche per esempio tutte le aziende europee che anche in Germania si temeva potessero diventare prede, soprattutto dopo la crisi dell'epidemia. Cioè, come questo semestre tratterà il rapporto con la Cina? Sì, questo è uno dei grandi temi se guardiamo verso l'esterno, naturalmente. Avevamo previsto per settembre un vertice di tutti i capi di Stato e di Governo con i vertici cinesi a Lipsia. Purtroppo a causa del Covid abbiamo dovuto spostarlo, adesso vedremo quando siamo in grado di farlo, perché siamo convinti che sarebbe importante svolgere questo vertice in maniera fisica, cioè in presenza fisica delle persone, un vertice reale, perché abbiamo davvero molti temi importanti. Naturalmente gli interessi commerciali, economici sono molto forti, e in questo senso vogliamo avere la Cina come partner, no? Come un partner importante. Dall'altro lato abbiamo anche delle situazioni dove abbiamo bisogno davvero di parlarci chiaramente, no? Vogliamo avere un level playing field quando parliamo degli investimenti nelle due direzioni, sui temi politici, se pensiamo alla legge di sicurezza su Hong Kong e altri temi che hanno a che fare con lo Stato di diritto e con i diritti dell'uomo, i diritti umani, abbiamo posizioni diverse. Allora è una relazione importantissima per noi europei, ma una relazione dove è anche importante, credo, che ci guardiamo negli occhi, parliamo chiaramente e cerchiamo di trovare ci si dicano le cose. Grazie Viktor Elbling, ambasciatore tedesco in Italia, per essere stato con noi. Maria, domani alle 8:20. A domani, ciao, arrivederci, ciao. Ambasciatore, ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao.